Elodie, Tiziano. Sei Satana che vive sulla mia spalla, che cammina insieme a me che tu blasta. La tua relazione è un buco nell'acqua e tu ci cammini sopra e fai. Sto silenzio quanto ci costa, forse più del Moisa. Vuoi rubare l'anima di una popstar? Ma fai così, mi odi come la R&B. Abbiamo i graffiti uccidi che lì da qualche parte nella tua Porsche. Profumo sui sedili che sa di noi senza vestiti. È stato solo un feeling. Ti ho amato forse anche troppo, anche in più di nascosto. Ad una sera alle sei quando eri con lei, dentro un bagno un'ora ad una festa e lei nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un club domenica. Era bella la notte, era stupida, però un altro io non eri unica. Di me non ti fidi, solo feeling, solo feeling. L'ultima gemma, per non annoiarci, un solo dilemma. Sinceri o bugiardi, mi cercavi la sera tardi e ti scrivevo solamente un indirizzo come taxi. E sì, era bellissimo così, gli specchi rotti e i tuoi jeans. Ma c'ero andata un po' sotto, forse anche troppo, in più di nascosto. Ad una sera alle sei quando eri con lei, dentro un bagno un'ora ad una festa e lei nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un club domenica. Era bella la notte, era stupida, però un altro io non ero l'unica. Di me non ti fidi, solo feeling, solo feeling. Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e puoi offrirmi da bere come un Don Perignon, and I move on, and on, and on. Erika, Missy, Aaliyah, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling. Ad una sera alle sei quando eri con lei, dentro un bagno un'ora ad una festa e lei nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un club domenica.